Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, torna l'appuntamento con Imprese Vincenti. Ci occuperemo anche del calcolo che ha fatto il Sole 24 Ore, perché leggo con molta osservo che c'è una certa leggerezza nel dire chiudiamo le scuole. Sapete che abbiamo fatto una campagna per riaprirle, vedo che in Francia, in Germania e anche in Gran Bretagna si tenta comunque l'impossibile per tenerle aperte. Oggi Sole 24 Ore ha calcolato anche quello che è un danno nella didattica a distanza. Ora, la didattica a distanza può essere fatta in molti modi, in alcuni casi riesce a essere anche, diciamo, a supplire in maniera accettabile quella che è la didattica in presenza, fermo restando che poi salta tutta la socialità e la socializzazione dei ragazzi. Però mi sembra che vi sia un po' di così, l'ultimo dei problemi, tanto le superiori stanno chiuse. In Lombardia è già avvenuto, vedo che anche in altre regioni. Forse è il caso di ricordarsi che non è proprio la stessa cosa, e come abbiamo avuto molte volte occasione di dire, tra l'altro crea una disuguaglianza sociale de facto, perché non tutti abitano in edifici dove sia possibile la didattica a distanza, in case spaziose abbastanza, non tutti hanno gli strumenti, i cosiddetti devices, non tutti hanno le connessioni. Quindi il principio, a mio avviso, più importante della scuola, dell'obbligo, che era quello di dare a tutti o ridurre le differenze sociali di partenza, la famiglia in cui sei nato, e permettere il più possibile di appianare quella che è un vantaggio o uno svantaggio, diciamo, di nascita, dando a tutti la stessa possibilità d'accesso all'istruzione, ci abbiamo messo decenni di conquiste per ottenere, capito, che gli studenti che finissero dalle fasce basse o dalle fasce alte della popolazione avessero lo stesso accesso scolastico. La didattica a distanza torna a creare dei problemi oggettivamente tra classi sociali. Ecco perché mi dà abbastanza fastidio vedere che si parla di chiusura delle scuole, non solo le medie superiori, anche le medie inferiori, tanto quello è l'ultimo dei problemi, non sono d'accordo. Parleremo anche delle elezioni americane per capire quali sono le attese dei mercati, e anche di come si possa in questo momento fare gestione del risparmio. Oggi c'è stata un'operazione importante annunciata da Azimut, ma gestione del risparmio con risparmi in aumento, almeno nell'area euro e in Italia sicuramente, perché abbiamo visto aumentare i depositi nei conti correnti e anche nel risparmio gestito. C'è incertezza e quindi purtroppo in questo caso si vengono frenati gli investimenti, vengono frenati anche i consumi, e se uno ha 2 lire da parte tende a metterlo sul conto corrente o a farle gestire. La domanda però sarà come si gestisce il risparmio con un tale livello di incertezza, non tanto e non solo per le elezioni americane quanto per la seconda ondata di Covid e le conseguenze economiche che sta o rischia di creare. Questo in una giornata in cui la borsa guadagna bene e Milano va meglio di altre, più 2,40%, Parigi più 2%, Francoforte più 1,90%, Dow Jones più 1,5% e Londra più 1,40%. Devo dire che su questo fronte oggi di negativo troviamo solo Recordati meno 3,75%, Nexi meno 2,40%, Campari meno 1,30%, di Assorin meno 0,80%. Bene invece molti titoli industriali, c'è un rimbalzo generale, non è che ci sia qualcosa di specifico. Oddio, su Nexi ha annunciato una trattativa in esclusiva per una fusione con la concorrente Nets, però i petroliferi salgono grazie a un rimbalzo del prezzo del petrolio. Saipem fa più 6,70, ma in realtà sono più che altro, a mio avviso, pretesti. Oggi, dopo una settimana di flessioni, si torna a comprare. Saipem più 6,70, Exor, la controllante del gruppo Fiat, più 5,50, Banca Mediolanum più 5,20, Buzzi più 5, Comeni, Tenaris più 4,80, Intesa San Paolo più 4,20, Amplifon più 3,60, Azimut più 3,5 come Mediobanca e Unipol, Leonardo pure, Banco BPM più 3,20, Biper più 3 come Banca Generali, Prismian più 2,90 come CNH e Telecom Italia, il 2,5 lo guadagna invece Enel e Fiat Chrysler più 2,2 come Atlantia, Unicredit, Ferrari ed Estimancro Electronics. Di questo parleremo, dicevo, poi come sempre anche le notizie in breve in apertura. Dobbiamo recuperare la startup di venerdì scorso, perché per motivi di tempo non siamo riusciti a commentarla. Vedo già molti messaggi su lockdown, chiusure. Parleremo infatti dei soldi anche per i tablet, insomma, o devices che erano previsti nella scuola, ma non servono a coprire tutta lo scarto, tutto quello che manca. Però, dunque, non sa minimamente di cosa parla, non ho ancora capito perché, immagino sulla scuola. Però, attenzione, molti mi stanno scrivendo del tema scontro regioni, governo. Allora, vediamo di capirci, perché io su questo oggi, in omaggio anche al grande Gigi Proietti, potrei dire che ho il cavaliere nero. Nel senso che, guardando le riviste, tutti i giornali francesi e spagnoli, in queste settimane, uno si accorge che, a parte una tensione forte tra il sindaco di Madrid e il governo centrale, io non ho registrato tutto questo protagonismo delle regioni in paesi simili a noi, Francia e Spagna in primis. Certo che la Germania ha una repubblica federale vera e propria e deve dialogare con con il singolo Land. Però a me sembra che, con tutti gli errori che aveva fatto il governo, troppi decreti probabilmente, troppo timidi all'inizio, questo ognuno può fare le valutazioni che vuole. Ho visto un appello oggi disperato dell'Ordine dei Medici Lombardi sulla chiusura, chiedendo appunto che venga fatto un lockdown a Milano e in Lombardia. Però io dico una cosa, mettiamola così: non è che uno può vantarsi, in questo qualcuno l'ha detto oggi, solo dei meriti, e quindi scoprirsi governatore con ampi poteri di una regione quando le cose vanno bene, quando ha dei meriti da rivendicare, e quando invece c'è da fare scelte dolorose, perché è chiaro che non piace a nessuna regione dire: noi dobbiamo entrare in zona rossa, dobbiamo fare un lockdown. Ma ci sono indicatori così diversi, l'RT con 2, dove sta, l'RT dove sta arrivando, cioè un insieme di indicatori su cui le regioni avevano anche condiviso una cornice generale. Non è che poi, quando c'è da prendere decisioni impopolari, perché è chiaro che non guadagni consenso nel chiudere una regione rispetto a un'altra, allora la patata bollente la devi lasciare al governo, perché quello a cui mi sembra che abbiamo assistito, ogni governatore con una sua posizione. De Luca che dice: no, bisogna chiudere tutto il paese, non solo la Campania. Fontana che dice: no, su Milano, e devo dire anche Sala, vogliamo essere coinvolti, ma qui parlo delle regioni. Zaia che rivendica il Veneto messo meglio, e me ne sono persi alcuni. Totti l'abbiamo visto. Cioè, qui c'è un protagonismo totale. Adesso, allora, decidiamo: o è tutto merito ed è merito in mano alle regioni, allora poi devono assumersi responsabilità anche nel chiudere, non solo nel dire: noi siamo stati più belli e più fighi e più fotomodelli di altri, radico in italiano stavolta, non in Veneto. E poi, ripeto, andate a leggere la stampa francese, la stampa spagnola in queste settimane, a parte alcuni casi specifici, la regione di Madrid, io non ho visto tutto, cioè il governo francese e spagnolo decide una misura, e non è che ogni, e sì che in Francia hanno chiuso alcune aree e non altre. E c'è stata una protesta del sindaco di Marsiglia, preoccupazioni quando Marsiglia ha chiuso prima di altre città. Poi la Francia ha chiuso 2/3 del paese in base alla popolazione. Ma insomma, tutta questa distinguo tra una regione e l'altra. Prendiamo gli indicatori, diciamo, di diffusione, e le regioni che sono sopra, mi dispiace, devono chiudere. Anche perché adesso non è che si possa sempre scaricare tutto sul governo centrale, quando governo delle responsabilità, le abbiamo già ricordate, ma anche le regioni si sono fatte trovare ampiamente impreparate sul trasporto locale e sulla implementazione delle strutture sanitarie. Quindi, dai, adesso, no, se no, ognuno si alza e dice: io no, io sì, tu io ni. Ma che cavolo di modo è questo di ragionare? Ecco perché sono abbastanza da cavaliere nero con tutti sti protagonismi, dai. Allora, sì, sarò partito con il piede errato oggi. Se a lei piace invece vedere tutti questi distinguo, tra l'altro io ritengo che, se esistono degli indicatori, e lo dicemmo anche a marzo e aprile, quando secondo me un cittadino della Puglia aveva più motivi di essere arrabbiato per il lockdown nazionale rispetto a un cittadino lombardo, visti i tassi diversi. Allora, esistono degli indicatori che ormai abbiamo imparato a conoscere tutti, quante persone infetta un positivo, l'R con T. Allora, se si supera, se ho ben capito, la soglia 2, soglia 1,5, quella regione va in fase 4 e viene chiusa. E non è che possiamo... e viene fatto un lockdown più forte. Non è che ogni volta si può dire ma noi però siamo qua, basta, no? Perché se no, no finiremo per penalizzare le regioni che hanno magari dati più bassi e arrivare tardi sulle regioni che hanno dati più preoccupanti. Comunque 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Ripeto, inutile che continuate a non si può essere governatori e chiedere l'autonomia solo quando le cose vanno bene, e quando invece c'è da prendere una decisione impopolare dire no, vogliamo che lo prenda il governo. Così non funziona, perché i meriti sappiamo che, come diceva Flaiano, se non ricordo male, l'Italia è un paese in cui, capito, le vittorie hanno molti padri e le sconfitte invece sono orfane. Guardate, non farò altri commenti sulle regioni, sui protagonismi, ormai diciamo basta, le elezioni regionali, lo dico a tutti i governatori, sono finite, anche quelli che sono stati rieletti, ben per loro, ok? Ora basta con gli show e le pagliacciate, assumetevi le vostre responsabilità, anche perché la sanità è su base regionale e tutti questi allarmi sulla situazione ospedaliera in Campania, per esempio, o in Lombardia, io non li ho sentiti in questi mesi, ad agosto, a luglio, a giugno, e così come assumetevi anche la responsabilità, e neanche il grido d'allarme sui trasporti ho sentito in questi giorni. E fine, poi non è colpa di, non è che il governatore abbia la colpa se l'indice è più alto lì, però è un dato di fatto, no? O vogliamo rifare, aspettare finché non chiudiamo tutto il paese nello stesso modo senza un criterio scientifico, dai, ma è meno statistico più che scientifico, scusate. Vabbè, oggi non ci sono grandissime notizie di quelle che noi chiamiamo in breve, se non il fatto che l'indice dei direttori e dei responsabili di acquisti del settore manifatturiero, il cosiddetto indice PMI, è risalito bene in Europa da ottobre ai massimi dal luglio del 2018 a 54,8 punti. Un grosso balzo l'ha fatto in Germania, 58 punti. Stiamo parlando dell'attività manifatturiera. E tra l'altro sappiamo che in questo momento c'è una divergenza tra andamento dell'attività manifatturiera, che tutto sommato va bene, anche il dato sul PIL lo dimostrava, e andamento del settore servizi, che ovviamente viene coinvolto in maniera brutale dalle chiusure parziali o totali, mi riferisco al mondo del commercio in primis, del turismo anche. Va bene, dicevo, in Germania l'indice manifatturiero è salito a 58,2 punti misurato dagli orientamenti dei responsabili acquisti. Anche in Italia è salito ai massimi dal marzo del 2018, come ogni volta spieghiamo che la differenza, lo spartiacque sono i 50 punti, se è sotto i 50 punti c'è un problema di recessione economica, se è sopra i 50 punti c'è una crescita economica. In Italia è tornato a 53,8 punti. Preoccupata la Coldiretti invece dal lockdown parziale della Germania, la chiusura di bar e ristoranti, dice che sono a rischio 7,2 miliardi di export. Ora, questo è quello che esportiamo, non è, rischiamo di perdere 7 miliardi 200 milioni di export in una botta, però è chiaro che lì abbiamo una grossa fetta del nostro export agroalimentare, che complessivamente vale 45 miliardi di euro, e sappiamo che i bar e i ristoranti in Germania resteranno chiusi almeno un mese. Tra l'altro Angela Merkel oggi ha detto: attenzione, siamo nel mezzo di un'epidemia che capita una volta al secolo, saranno 4 mesi molto duri e la luce in fondo al tunnel è ancora molto distante. Vedremo quello che prenderà, le decisioni che prenderà il governo italiano, l'ipotesi di coprifuoco nazionale 21 e poi delle regioni invece che avranno misure ancora più stringenti in base appunto agli indicatori sanitari. Lo stesso Presidente del Consiglio Conte ha detto che in 15 regioni le terapie intensive saranno a rischio tra un mese e c'è una pressione non sostenibile nelle terapie intensive. Bisogna misurare, le strategie vanno modulate in base alle regioni e ci sono, indicheremo tre aree con tre scenari di rischio con misure via via più restrittive. Quando una regione entra in una di queste scenario si becca più restrizioni, così come, ed era un po' il ragionamento che faceva Mario De Aglio, quello che chiedeva, fateci sapere anche quando gli indicatori invece ci porteranno a un obiettivo positivo, quando esci potrai anche uscire da certe restrizioni. Mi sembra, non voglio chiamarlo meccanismo di semafori, perché qua il semaforo verde non lo vedo da nessuna parte, però insomma almeno permette a tutti noi di capire che prospettive abbiamo in base agli indicatori sanitari. E Conte ha anche detto, capiamo la rabbia, ma no, non c'è un dilemma, un'alternativa tra economia e salute, e faremo tutti gli sforzi finanziari a sostegno del lavoro. Portiamo questo passaggio sulle misure economiche irrinunciabili. Il governo non intende arretrare di un millimetro rispetto al proposito di garantire la più ampia protezione economica possibile ai lavoratori, alle imprese, alle famiglie italiane. Tutti gli ulteriori sforzi finanziari che dovremo compiere costituiscono, lo voglio dire chiaramente, elementi di stabilità, di certezza e di sicurezza per il mondo del lavoro che appaiono oggi assolutamente irrinunciabili. E con questo spirito, peraltro, che abbiamo varato la scorsa settimana il decreto legge Ristori, all'esito di un confronto con le parti sociali, e che abbiamo deciso di estendere fino alla fine di marzo del prossimo anno il blocco dei licenziamenti, garantendo al contempo che la cassa integrazione cosiddetta Covid sia gratuita per i datori di lavoro interessati dalle misure restrittive e per coloro che subiscono più in generale il blocco dei licenziamenti. Anche a fronte di queste ulteriori limitazioni, d'accordo con il ministro Gualtieri, con il ministro Patuanelli, stiamo già lavorando per compiere, realizzare, per seguire ogni azione utile per ristorare e sostenere i settori colpiti, e per questo appunto cercheremo di concretizzare queste erogazioni in termini di ristori e indennità al più presto. Allora, no, vedo chiaramente molti messaggi sulle regioni. Guardate, qui non è, secondo me anche il governo ha sbagliato probabilmente nel fare troppi DPCM, e anche il primo a questo punto superato dopo una settimana ce lo potevamo evitare, quello della chiusura a mezzanotte per intenderci. Però attenzione, qualcuno vuole che sia ancora più esplicito, voglio dire, cioè, invece io vedo il governatore campano De Luca che continua a dire no, non la chiusura solo per la Campania o per Napoli, tutta l'Italia deve essere chiusa. Vedo dichiarazioni anche del governatore del Piemonte Cirio, le misure devono essere nazionali. Toti oggi è tornato su chi ha più di 75 anni. Fontana che dice no. Allora, vediamo di capirci. Forse sarebbe più corretto dire governatore della regione Campania, Piemonte, Lombardia, quindi non sto facendo distinzioni politiche. Scusate, siamo arrivati in una situazione critica, ce ne assumiamo ogni responsabilità, visto che la sanità è di pertinenza nostra e anche parte del trasporto locale. Non riusciamo a gestire in Lombardia, a tracciare niente praticamente, perché mancano le USCA, non abbiamo attivato le USCA per tempo, non abbiamo fatto richieste stringenti nei mesi in cui tutto si era calmato. Quindi adesso dobbiamo chiudere la Campania, dobbiamo chiudere la Lombardia, dobbiamo chiudere il Piemonte. No, loro vogliono che la decisione arrivi dal governo. Allora, non pindiamoci per il sedere. Se c'è da rivendicare che la tua regione funziona bene, io mi immagino gli stessi governatori che ho citato andare a fare video dirette dicendo guardate che bravi che siamo. Se c'è da chiudere la tua regione perché i casi non sono tracciati, sono fuori controllo e non si riesce più a gestire, te lo dicono i medici, non te lo dice il sottoscritto, e deve essere il governo a chiudere le regioni. Così un secondo dopo tu accusi il governo di aver discriminato la Campania, la Lombardia e il Piemonte rispetto al resto del paese. Oh, che siamo? Di Bosco e di Riviera? Per favore, assumetevi le vostre responsabilità, visto che vi piace chiamarvi governatori, visto che in molti casi avete rivendicato anche l'autonomia, maggiore autonomia, ma adesso che ce l'avete, l'autonomia mica è solo quando ti becchi gli applausi, è anche quando ti becchi i fischi l'autonomia. Questo si chiama accountability, cioè chi ha il dovere di prendersi le responsabilità. E poi c'è anche il governo, ci mancherebbe, però sto teatrino di protagonismi, di Facebook, di video, disparate che ormai superano anche i comici che li imitano, è veramente intollerabile. Andiamo sul meteo, pubblicità e poi andiamo sulle imprese vincenti. Vai. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. minuti, qualcuno mi fa notare, ha dimenticato anche con Pascher, ma certo, ne abbiamo parlato anche venerdì, presidente della provincia autonoma di Bolzano in Alto Adige, che prima dice no, noi teniamo fino alle 22, cos'era, abbiamo questa possibilità, poi vede quello che capita in Germania, in Austria e chiude ancora prima che nel resto del paese, tanto i soldi arrivano da Roma. Ma cosa di con Pascher, ho detto quello che devo dire, su adesso basta, che qua non, ma non è una filippica contro il federalismo. Il federalismo è una cosa seria e bisogna avere classe dirigente anche sul territorio per potersi permettere il federalismo. Se no c'è il modello francese fatto di prefetti e centralizzazione. Questo poi ognuno scelga quello che vuole, però basta con sto protagonismo mediatico e mai l'assunzione di responsabilità. Avessi sentito dire una volta da un presidente di regione abbiamo sbagliato, abbiamo sottovalutato in questi mesi. Poi il governo fa bene a dirlo anche lui, perché probabilmente anche nel governo ci sono dei ritardi, li abbiamo citati, scuole, banchi a rotelle, le gare bandite troppo tardi, l'abbiamo fatta la lista. Però non è che la lista si fa solo col governo perché sta sulle balle Conte, si fa anche con i presidenti di regione a casa mia, che hanno delle grandissime responsabilità e delle grandissime anche autonomie nello scegliere, che io non ho. Andate a prendere la rassegna stampa fino a metà settembre e mi dite chi è che lanciava l'allarme. Erano tutti impegnati, quelli che erano in campagna elettorale, gli altri ancora a fare i fotomodei. Allora andiamo con invece la startup che non abbiamo non siamo riusciti a fare, a coprire venerdì scorso. Antonio Romano, di nuovo buonasera, fondatore e amministratore delegato di Spin Up. Buonasera. Buonasera, buonasera dottor Barisoni. Buonasera. Allora, mi permette una chiosa, perché ho ancora qualche covidiota che mi scrive, il Covid non ci crede più nessuno. Senta, dico a lei ma anche altri ascoltatori, invece che scrivere a questo programma, c'è un primario, adesso vado a cercare dove, secondo me Novara o Alessandria, che ha invitato su Facebook a tutti quelli che sono scettici sul Covid a farsi un tour, tipo un tour turistico nel suo reparto. No, allora invece che scrivere a me, scriva su Facebook al primario, adesso le dico anche di quale reparto e di quale città, si iscriva, vada a farsi un giro nel reparto Covid e no, e così è contento e potrà negare quello che vuole. Dicevo, che cos'è Spin Up? Quando l'avete fondata, quanto fatturate, chi vi ha aiutato, quanti siete, un fiorino e anche quanti anni a lei? Ok, ok. Allora, io ho 34 anni, Spin Up l'ho fondata nel 2017, è una società di performance marketing ed è la prima media tech company italiana. Performance marketing significa che i clienti ci pagano al risultato, sulla base dei risultati che produciamo. In gergo si chiama lead, sono contatti di utenti interessati a quella promo di quel particolare brand. La società ha avuto una crescita importante Oggi fatturiamo 3 milioni di euro e di anno in anno abbiamo insomma più che raddoppiato il fatturato. Chi ci ha aiutato? In realtà la società si è autofinanziata, quindi è una società con base a Napoli. Che questo mi fa molto piacere, perché più no, è vero, perché più startup vediamo nel nostro mezzogiorno meglio è. E le dirò di più, che in realtà abbiamo acquisito una società di Milano, quindi il 25 giugno di quest'anno, durante il Covid, ho studiato, strutturato l'operazione, e il 25 giugno di quest'anno abbiamo rilevato questa tech company per andare ad avallare quella che era insomma la mia visione, mission di creare una realtà dove marketing e tecnologia, per rispondere prima alla Media Tech Company, marketing e tecnologia sono integrate tra di loro. E questa integrazione è una soluzione tutta nuova, perché di solito il marketing parla poco con la tecnologia, quindi noi produciamo soluzioni tecnologiche proprietarie, portiamo gli utenti su queste soluzioni tecnologiche proprietarie, una di queste è creata con intelligenza artificiale, e quindi l'utente interagisce con questa tecnologia, dove attraverso questi software l'utente è in grado di interagire con intelligenza artificiale per avere informazioni. Senta, una curiosità mia, perché non avete chiesto quanto fatturate? Forse l'ho persa io, chiedo venia. 3 milioni, non si preoccupi, 3 milioni di euro chiudiamo il bilancio di quest'anno, in realtà li superiamo. Quindi siete andati meglio quest'anno dell'anno scorso? Abbiamo raddoppiato. Però. E i dipendenti? Dipendenti ne abbiamo 14, 7 su Napoli e 7 su Milano, tutti assunti a tempo indeterminato. Ah, bello. Ma perché non avete fatto ricorso, ho chiesto aiuto, non so, ci sono fondi di private equity, fundraising, alle banche, prego. Assolutamente. Allora, il concetto della finanza, prima volevo mostrare quella che era una crescita, non quella che erano le metriche, quello che la società era in grado di esprimere con un dato finanziamento, perché poi la società produce un margine pari al 30% del fatturato, e dopodiché pronti per la scalata, e quindi adesso siamo proprio in contatto in questi giorni, e prossimo anno ci sarà un aumento di capitale importante, dove vedrà l'ingresso di fondi importanti per un piano industriale. Quindi cioè era anche una strategia, dire prima cresciamo con le nostre gambe e poi chiediamo. Certo. Scusi, che cosa faceva lei prima e quanti anni ha? Allora, ho 34 anni, prima ho fatto un'altra azienda sempre a sud, uno dei primi e-commerce food lanciati in Italia nel 2014, dove si vendevano online prodotti tipici campani distribuiti poi in tutta Italia, e ancora prima sono stato dirigente e manager d'azienda, e diciamo così, sono stato a Milano tanti anni, e il desiderio di tornare a Napoli per cercare di insomma un po' provare a invertire il paradigma, perché penso che comunque c'è sempre la possibilità di creare delle opportunità, quindi non dobbiamo solo dire no di un meridione che fa fatica, che sicuramente fa fatica, ma c'è anche tanto fermento, tanta energia, ci sono tantissimi ragazzi di valore, e quindi devo dire la verità, io ho creato questa azienda, seppur ancora piccola, ma con la grande passione, tenacia, e soprattutto è bello, no, vedere una realtà del sud insomma crescere con le proprie gambe, quindi si può fare. Allora, in bocca al lupo a lei, a tutti i dipendenti, e complimenti anche ad Antonio Romano, appunto fondatore e amministratore delegato di Spin Up. Dunque, dicevo in apertura, il primario che ha proposto un tour è il primario dell'ospedale di Rivoli, provincia di Torino, direttore dell'anestesia, e quindi tutti quelli che invece che scrivere qua vogliono andare a farsi, fate un bel tour, abbiate il coraggio della verifica, il principio galileiano, andate a vedere invece che sta lì a casa a fare i leoni da tastiera, andate a vedere, andate nei reparti, parlate con un medico, avrete un amico medico, un anestesista, qualcun infermiere, qualcuno che lavora. Com'è la situazione? È vero che non c'è niente, è tutta una balla? No, più facile non verificare. Allora, Eugenio Bruno del Sole 24 Ore, buonasera Eugenio. Buonasera. Oggi voi su Sole 24 Ore avete cercato di mettere l'attenzione, di porre l'attenzione sul fatto che al di là del danno sociale a svantaggio dei meno fortunati, di chi è nato e cresciuto in famiglie con redditi più bassi e con maggiore disagio sociale, parlo della scuola a distanza, della didattica a distanza, che anche gli stessi governatori hanno annunciato così, come se fosse una cavolata, l'unica cosa di cui sono presi la responsabilità, voi avete fatto un calcolo sul danno che c'è complessivamente per il paese, immaginando che ovviamente la didattica a distanza, per quanto possa essere fatta bene in alcuni casi, è sempre un succedaneo, non è mai come la didattica in presenza. Eugenio. Sì, diciamo che il conto l'ha fatto l'OCSE, noi con uno studio di fine settembre che noi ci siamo andati a guardare e abbiamo riportato. Il senso dello studio è provare a capire, a misurare e anche a raccontare in che modo chiudere le scuole impatta su un intero paese. Il senso è che perdere un'altra porzione di anno dopo che ne è stata persa una in primavera rischia di lasciare dei danni sulla formazione dell'intera vita, dell'intera vita formativa, dell'intero corso di studi dei ragazzi, che poi futuri lavoratori si porteranno avanti anche nel mondo del lavoro. Cioè, come paese rischiamo di avere una forza lavoro meno formata, meno qualificata, meno capace di produrre PIL. Ecco, questo è il senso dello studio e in qualche modo spiega anche perché tanti paesi che nella prima ondata, come noi, hanno come riflesso condizionato chiuso le scuole, adesso ci stanno andando con i piedi un po' più di piombo. Francia, Germania e Spagna. Eugenio, ti chiedo ancora 2 minuti dopo il traffico, anzi no, il traffico può saltare oggi meglio, te lo chiedo subito. Come si fa a calcolare però un danno di un punto e mezzo percentuale di PIL in meno fino alla fine del secolo? C'è un calcolo OCSE, se ho ben capito? Sì, è un calcolo OCSE, è un calcolo a spanne, l'1,5 è medio, perché riguarda un plafond più ampio di paesi. Lo stesso tipo di danno può essere più sensibile per Singapore, per gli Stati Uniti, in quei paesi dove abbiamo una forza lavoro più formata, è più basso per la Grecia. Questi sono gli esempi che vengono fatti all'interno dello studio. Ed è un danno che si aggiunge alla perdita di reddito del singolo lavoratore. C'è anche quel tipo di danno. Se si abbassano le mie competenze, si abbassa il mio livello di capacità, anche professionale, sono destinato a guadagnare meno e alla fine ci perdiamo tutti. Questo brutalizzando è il senso. Ora, quello che voglio dire anche ad alcuni ascoltatori, attenzione, è importante invece ricordare che oltre al danno sociale che crea la scuola a distanza, perché va, ripeto, per la terza volta a dividere in maniera molto ineguale tra gli, come si chiamano in inglese, gli happy few, i pochi felici e ricchi, e la massa che invece non ha le stesse opportunità né a livello abitativo né a livello di connessione tecnologica né anche a livello di genitori in casa che ti possono aiutare, e quando, c'è anche un problema di tenuta del PIL. Cioè, se vogliamo immaginare che l'istruzione serva alla capacità di un paese, e mi piace molto l'articolo che avete fatto oggi sul Sole, perché ho visto, ripeto Eugenio, passare molto in cavalleria le chiusure delle scuole. Penso Lombardia e Campania sono state le prime a chiudere la didattica a distanza per tutte le scuole superiori, come se fosse un provvedimento quasi minore. Non so se ho avuto solo io questa sensazione. No, è una sensazione corretta anche dal mio punto di vista. L'equazione è stata semplicemente, siccome sono ragazzi più grandi, possono stare da soli a casa davanti a uno schermo, esatto, e quindi l'impatto sociale sulle famiglie è minore. Forse questo tipo di impatto sì. Hai citato la Lombardia. Ok, se pensiamo che anche Campania e Puglia hanno già chiuso tutti i livelli di istruzione, Campania e Puglia sono tra le aree del paese dove già adesso in una condizione normale, o meglio già fino al 2019, certo, ultimo anno normale, i livelli di apprendimento e i risultati dimostrati dai ragazzi nei test Invalsi erano minori della media. Quindi il danno è un danno a catena che si genera nel momento in cui la soluzione è la semplice chiusura. Allora, grazie Eugenio Bruno del Sole 24 Ore. Su questo io, ripeto, sono d'accordissimo. Tra l'altro tu citavi anche i dati pre-Covid che vedevano le regioni al sud già messe in fondo alla lista prima del Covid. Adesso però vorrei, vedo molti messaggi, intanto dare i dati, purtroppo sono usciti, escono purtroppo durante questo programma, ma insomma, questo è poco importante, i dati appena diffusi. Allora sappiamo che la domenica ci sono meno tamponi, infatti ce ne sono stati solo 135.000, quindi il numero di contagi va preso con le pinze, sono 22.200, ieri 29.000. Le vittime invece, i dati più clinici, quelli non dipendono dal numero di tamponi che fai, le vittime sono salite 233, sono un po' scese, se ben ricordo i dati di ieri, le terapie intensive, 83 in più. I nuovi ricoverati sono 238 in più. Il punto è che si è superato la soglia che da molti era ritenuta la soglia, diciamo, appunto, visto che parliamo di indicatori sanitari, la soglia di attenzione, le 2000 terapie intensive per Covid in Italia. Detto questo, continua il nostro viaggio con le imprese vincenti, il viaggio che Radio 24 sta compiendo assieme a Intesa San Paolo e in giro per l'Italia. L'abbiamo portato, abbiamo viaggiato nord, sud e centro del paese. Il viaggio lo compie come sempre il nostro Andrea Ferro, che questa volta unisce due tappe del Digital Tour, Bari e Bologna. Tra il cuore dell'Emilia e la dorsale adriatica, dalla Romagna alle Marche fino alla Puglia, c'è un tessuto economico che fa della varietà delle produzioni il punto di forza. Spina dorsale di questo sistema sono le piccole e medie imprese. A loro è dedicata l'iniziativa Imprese Vincenti di Intesa San Paolo, un digital tour alla scoperta di testimonianze di eccellenza. Tour che questa settimana ha fatto tappa a Bari e a Bologna. Partiamo con un focus sulla realtà pugliese con Pierpaolo Pontrandolfo, ordinario di ingegneria meccanica al Politecnico di Bari. Ovviamente la pandemia Covid-19 ha colpito duramente l'economia della Puglia, come del resto tutta la nazione. Devo dire che in alcuni comparti il colpo è stato meno duro che rispetto alla media nazionale. Ad esempio, se ci rifacciamo al dato sulle esportazioni, queste calano un po' meno che nel resto dell'Italia. In particolare il nostro comparto agroalimentare registra un incremento di esportazioni, mentre purtroppo i comparti classici, automotive, farmaceutica, aerospazio, hanno un calo. La meccanica tutto sommato tiene perché, a mio avviso, ha saputo diversificare e quindi legarsi anche ad altri settori, e in particolare al biomedicale, che ovviamente in questa situazione ha dato qualche opportunità in più. Su quali elementi in particolare i territori possono e devono puntare? Sottolineo l'importanza dell'innovazione digitale, della sostenibilità e della integrazione di filiera che possa mettere in gioco appieno il tessuto delle piccole e medie imprese che caratterizzano la Puglia come del resto il resto della nazione. È importante quindi, diciamo, mettere in piedi uno sviluppo secondo una logica di ecosistema, saper innovare insieme. Insomma, da decenni si parla di open innovation. Occorre mettere in pratica queste indicazioni, quindi far lavorare assieme le imprese, che siano grandi, PMI, startup, spin-off, e anche ovviamente le università che apportano competenze, tecnologie e ricerca. Come sentivamo, l'agroalimentare è un settore che tiene, anzi continua a crescere. Da Gravina in Puglia, il caso di Andriani, gruppo che da anni registra un aumento del fatturato a doppia cifra. Tommaso Marbulli è l'amministratore delegato. Il mercato nel quale Andriani opera è un mercato molto dinamico ed è costantemente in evoluzione. Producendo paste speciali, utilizzando ingredienti e materie prime che naturalmente non contengono il glutine, Andriani propone la sua offerta che si rivolge oltre al classico mercato dell'intollerante al glutine anche a svariati altri mercati nell'ambito dell'healthy food, dell'alimentazione dello sportivo, producendo prodotti anche a base di legumi, a base di ancient grain, di cereali. L'export attualmente, quello che è fuori dal domestico, dall'Italia, incide circa il 65% del valore della produzione di Andriani. la capacità produttiva entro il 2021 sarà ulteriormente incrementata del 15%. Dal fronte della digitalizzazione, da Novoli, in provincia di Lecce, l'esperienza di Deghi, azienda specializzata nella vendita online dell'arredo bagno. Anche in questo caso ritmi di crescita sostenuti, come ci dice il presidente Alberto Paglialunga. Negli anni abbiamo visto crescere i nostri volumi, i nostri clienti e i nostri collaboratori fino ad arrivare oggi ad averne 120. Siamo stati bravi a capire che nel web ci potesse essere uno spiraglio importante, ci abbiamo creduto, abbiamo investito tanto. Oggi abbiamo un magazzino di 20.000 metri quadrati dal quale partono quotidianamente circa 1.000 spedizioni per i nostri clienti che sono sparsi su tutto il territorio nazionale. E la sfida più grande è proprio quella di cercare di mantenere un servizio sempre adeguato. Quotidianamente cerchiamo di soddisfare i nostri clienti spedendo in 3 ore da quando riceviamo l'ordine, lì dove la merce è disponibile in pronta consegna. Ad oggi il 93% degli ordini è di merce giacente presso i nostri magazzini. Risaliamo la dorsale adriatica, arriviamo a Poggio Torriana in provincia di Rimini. Qui a casa il gruppo Focchi è specializzato in costruzioni metalliche e in particolare nei rivestimenti dei grattacieli. Maurizio Focchi è l'amministratore delegato. Siamo stati fondati nel 1914 da mio nonno, che faceva il fabbro, lavorava il ferro. Noi facciamo un'attività in cui si intrecciano progettazione e design, lavoriamo, diciamo così, per l'architettura, facciamo la pelle di grandi palazzi e di grattacieli in vetro e in tanti altri materiali. C'è una componente di design e di progettazione molto importante, ma c'è anche una componente, facendo dei manufatti unici, come ogni grattacielo è unico, diciamo così, componente manuale di grande qualità, di grande attenzione, quindi anche una cultura di tipo artigianale. Quindi riusciamo a fare progetti importanti, ecco, tipo, non so, la Torre Libersin a Milano, quella di City Life, dove abbiamo fatto 2 delle 3 torri, progetto con Renzo Piano a Londra e a New York, a Columbia University. Ecco, la grande soddisfazione è fare progetti di questo tipo molto sfidanti. Ora in provincia di Reggio Emilia, Castelnuovo di Sotto ha sede Motor Power Company, opera nel campo dell'automazione. Nel 2015 ha aperto uno stabilimento in Cina. Cristian Grandi è l'amministratore delegato. Tipicamente i nostri clienti sono costruttori di macchine automatiche e impianti in vari segmenti di mercato, quindi abbiamo clienti che operano nel settore delle macchine medicali, nelle macchine utensili, nel settore della logistica. Quindi, per renderla semplice, ovunque ci sia bisogno di creare della movimentazione che sia controllata in termini di posizionamento e velocità, potenzialmente ci potrebbe essere un nostro dispositivo, quindi un servomotore elettrico. Negli anni siamo cresciuti tanto, in quanto abbiamo investito. La nostra intenzione è stata quella proprio di essere in Cina, produrre in Cina per soddisfare il mercato locale. Non ci è mai venuto in mente di aprire in Cina per portare prodotti o semilavorati a basso costo. D'altra parte, se vuoi operare su quel mercato devi essere direttamente lì. Allora, grazie anche ad Andrea Ferro che ritroveremo in tour con Imprese Vincenti. Prima di andare su GR24, un rapido aggiornamento dai mercati finanziari. Più 2,5% la chiusura di Milano, più 2% Francoforte, più 2,11% Parigi, Londra più 1,40%, Dow Jones più 1,70%. Bene, come dicevamo anche in apertura, tutti i settori in maniera abbastanza indistinta. Saipem più 7,60%, Eni più 5,80%, Exor più 5,60%, Banca Mediolanum più 5,5%, Tenaris più 5,20% come Buzzi Unici, e Intesa San Paolo guadagna il 4,40%, Banco BPM il 4%. Di negativo invece ricordati meno 3,80%, Nex meno 2,60%, Campari meno 1,70%, Diasor in meno 1,5%. Parleremo di mercati in vista sia delle elezioni americane, ma anche e soprattutto per quelle che sono le scelte dei gestori del risparmio, nella seconda ora del programma, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Intanto GR24. La ricerca scientifica. Hai mai pensato che vive in tutti noi? Che con lei il genere umano ha debellato malattie, raggiunto spazi infiniti, ha aperto nuove possibilità? Lei è la nostra salute, è il progresso, è il nostro domani. Dal 1 novembre prendi parte anche tu ai Giorni della Ricerca. 8 giorni per fare il punto su risultati e sfide in tanti appuntamenti che trovi su AIRC.it. Noi siamo ricerca. Insieme rendiamo il cancro sempre più curabile. Buongiorno. Per la mia attività ho bisogno della firma digitale. Normale o Buffetti? Beh, so che mi serve subito. Allora solo Buffetti le dà firma, pack e speed tutto in 24 ore. Firma digitale Buffetti le semplifica la vita. Con il suo speed evita le code agli uffici pubblici, accede a tutti i siti della pubblica amministrazione e le consente di risolvere tutto subito, direttamente via web. Anche con l'INPS? E come? E con la consulenza che solo Buffetti sa dare nella giungla delle pratiche pubbliche. La sua firma digitale, eccola qui, pronta, nei negozi Buffetti. I miei rifiuti industriali? Io li metto su un camion e via. Un affarone. Però volevo sapere cosa fai tu, Contini. Ma sai, oggi trattare i rifiuti industriali senza rischi penali è diventata una bella sfida. E se non stai attento, zac! Ma li leggi i giornali? Impianti strani, incendi, manette. Io non voglio grane. La soluzione è la gestione Omnisist. Sì, ma cos'hanno in più? Semplice. Progetti concreti e una posizione indipendente. Non hanno impianti né camion e quindi mi consigliano liberamente il meglio. La sfida si vince con Omnisist. Omnisist. La responsabilità ha un nuovo valore. Omnisist.com. Non perdere le tre partite a giornata della Serie A Team in esclusiva su DAZN. Domenica 8 alle 12:30 c'è Lazio-Juventus. Live solo su DAZN. DAZN, ancora più sport. Info e condizioni su DAZN.com. Azimut Peerbox eleva al cubo i vantaggi fiscali della normativa Peer Alternative. Scopri come su azimut.it. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario Azimut. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Dunque, dopo l'aggiornamento di borsa, noi restiamo sul tema dei mercati finanziari, sul doppio fronte. Da un lato, su come analizzeremo fra poco come si muovono i gestori del risparmio, non solo del risparmio cosiddetto dei ricchi, wealth management, ma in generale quali sono le posizioni che stanno prendendo i gestori, con un'incertezza totale dovuta chiaramente alla gestione della seconda ondata o questa fase, diciamo, del Covid, ma anche le elezioni americane. E da qui invece vorrei partire per l'appuntamento di ogni lunedì con Alessandro Praterotti per capire appunto lo scenario sui mercati e sull'economia che si sta delineando. E come sempre appunto l'appuntamento è con Dietro la Notizia. Dietro la Notizia. Allora, di nuovo buonasera ad Alessandro Praterotti, editorialista del Sole 24 Ore. Alessandro, buonasera. Buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori. Dunque, noi avremo una lunga, come molti media, copertura elettorale a partire da domani, lo ricordo, in effetto notte fino alle 23, poi dall'alba di mercoledì, quindi dalle 5:30 di mercoledì, lungo tutta la giornata. Elezioni un po' più complicate del solito, c'è una forte preponderanza del voto postale, molta incertezza. Al di là, diciamo, degli elementi politici in senso stretto, chiedo a te, che per tantissimi anni hai fatto corrispondente dagli Stati Uniti per il Sole 24 Ore, quale può essere l'impatto? Oggi abbiamo visto le borse andare bene, ma è difficile legarle alle previsioni elettorali, però quale può essere l'impatto sia sul fronte finanziario Biden, Trump, che sul fronte anche economico? Facciamo una rapida guida. Intanto queste sono elezioni in cui Wall Street ha già votato per tutti e due, nel senso che il clima di emergenza sanitaria ed economico soprattutto, che ancora è dominante un po' a livello mondiale, soprattutto in America, fa sì che i programmi a confronto, quelli che interessano la borsa, intendo dire, sono tutti e due di grandi aiuti all'economia e di sostegno ai redditi. Quindi per Wall Street, sotto questo profilo, sono elezioni che chiunque vinca ha sempre un effetto, diciamo così, propulsivo come spesa. Detto questo, ci sono alcuni settori che rischiano di più a seconda di chi vince. Partiamo da Trump. Nel caso di una sconfitta di Trump, perché adesso non faccio tifo per la borsa, non tifo per nessuno, ma detto questo, una sconfitta di Trump potrebbe avere serissime ripercussioni su tutto il comparto del real estate commerciale e del, diciamo così, l'insieme dei prodotti finanziari che sono legati a quello dei mutui immobiliari e soprattutto quelli commerciali. Ricordiamo che in America il commercio sono grandi centri commerciali, shopping center, strutture immobiliari di grandi dimensioni che vivono di finanza. Lì si Trump, il primo provvedimento che ha preso quando fu eletto, e quando ci fu a marzo la crisi del Covid, fu quello proprio di dare sostegno finanziario ai fondi immobiliari, anche perché ha un interesse vestito lui, certo, in questo senso, lui che viene da là. Un altro settore che è a grande rischio è quello dello shale gas, del petrolio e di tutti i derivati energetici, soprattutto delle società americane, che sai, tu sai benissimo quante sono quotate in borsa ormai da anni, soprattutto nella produzione dello shale gas, della frammentazione delle pietre. Beh, là già con il petrolio ai prezzi ridicoli avevano sofferto in borsa. Lui ha fatto un'iniezione di 1.000 miliardi, grosso modo, fra aiuti indiretti e diretti. Quelli indiretti sono gli acquisti per conto delle riserve petrolifere americane. Lì ci sarebbe immediatamente, perché quello non è una parte di, diciamo così, mondo economico, elettorato, che interessa i democratici. Quello che interessa i democratici e che potrebbe beneficiare di più di una vittoria di Biden, in questo senso, quale potrebbe essere? Sicuramente quello del mondo dei crediti. I crediti ambientali, noi chiamiamo i crediti i green credits, ovvero i sussidi all'industria per la riconversione ecologica o quantomeno per gli investimenti ecologici, anche attraverso acquisizioni di società che fanno batterie. Una è stata poco tempo fa della General Motors, proprio pochi giorni fa, il guadagno principale che ha annunciato la GM comprando questa società che fa batterie erano i crediti verdi, non di certo vendere più auto in questo momento. Quindi tutto quel settore lì è sicuramente destinato a crescere. Un altro che in questo senso vedo anche un'indicazione trasversale, chi dico che perda, sicuramente quello dell'istruzione è uno dei settori più caldi in questo momento, paradossalmente, non quella pubblica ma quella privata. Le scuole private in America, il sistema, non solo in America, anche in Cina ho visto che è un grandissimo business, è diventato quello dell'istruzione più avanzata, fatta attraverso le trasmissioni telematiche, il web, quello che noi stiamo vivendo in questo momento nel sistema educativo americano, ma vi ripeto, ho visto anche in Cina, perché è un caso di un hedge fund, visto che parliamo di borsa, l'hedge fund che ha guadagnato di più in assoluto al mondo con un rendimento del 350% in 9 mesi, è un hedge fund che ha investito sul sistema educativo cinese, sulle scuole cinesi e soprattutto quelle via web. Quindi ci rendiamo conto di che cosa si tratta. Ecco, queste sono indicazioni generali. Poi possiamo dire le armi è un altro comparto che con Trump ha beneficiato enormemente per lo scudo protettivo che lui ha dato. Però attenzione anche l'acciaio, quello è un altro settore che sicuramente chi investe in quella direzione deve stare molto attento, perché la paralisi ancora dei cantieri dell'attività produttiva rischia di abbattersi sicuramente su questo. Attenzione al commercio, alla grande distribuzione, perché quella via, diciamo così, sempre attraverso la rete telematica del commercio elettronico, sicuramente tassi di crescita che sono molto promettenti. Un'ultima domanda, Alessandro, è chiaro che la risposta può essere chiaramente solo un'opinione, ma tu che conosci appunto e hai conosciuto per tanti anni gli Stati Uniti, ritieni che siano giustificate queste paure di una, è vero che il voto è diverso come dinamiche per il voto postale, ma di una possibilità che non venga accettato il voto? Perché a noi vista da qua, insomma, sembra quasi irrealistico, nel senso che sappiamo, ci fu il famoso caso di Bush che vinse per una manciata di voti in Florida, Bush figlio, però non ci fu mai nessun problema negli Stati Uniti, qualche polemica per carità, ma nell'accettare il vincitore, perché quello potrebbe essere un elemento di grande incertezza anche per i mercati. Allora, il problema di accettare il vincitore, qua si tratta di definire e di accettare lo scatto, perché queste sono lezioni che hanno, diciamo così, la stabilità futura è legata allo scarto del vincitore su chi viene sconfitto, perché un margine basso Trump l'ha ripetuto anche ieri, lui non accetterebbe un risultato se una sconfitta di margini ridotti, perché è convinto che ci siano brogli, è convinto che ci siano state le manipolazioni. Il caso di George W. Bush e di Gore è scuola. In America quello ha rotto un diaframma che non c'è più, una volta che rompi delle barriere restano aperte. Quindi gli americani sanno che la contestazione del voto è legittima e possibile. Detto questo, ripeto, sarà lo scarto determinante, perché i mercati finanziari in questo senso temono più lo stallo, naturalmente, certo, uno stallo legale che diventa giudiziario o costituzionale, piuttosto che la vittoria di uno o l'altro. Allora, grazie anche ad Alessandro Praterotti, che ritroveremo lunedì prossimo per un altro appuntamento con Dietro la Notizia. Noi adesso andiamo sul traffico e poi però restiamo in tema di, come dicevo, di mercati, ma per parlare con chi di lavoro gestisce i risparmi raccolti, li deve investire, quindi risparmio gestito, anche patrimoni importanti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Guarda al futuro con Italiana Assicurazioni. Vi presenta Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia. Dicevamo prima con Alessandro Praterotti, non c'è solo l'incertezza sul anche l'accettazione del voto per i mercati, c'è soprattutto chiaramente in questo momento il tema come verrà gestita e soprattutto che danni farà la seconda ondata di Covid, di chiusure che sta portando in tutta Europa e vedremo poi negli Stati Uniti. Vorrei capire come si muove chi gestisce il risparmio. Abbiamo visto grossi movimenti anche sui depositi di conti correnti e sul risparmio gestito in Italia, perché quando c'è l'incertezza che domina tendi a purtroppo ritardare gli investimenti o a ridurre o non aumentare i consumi e a depositare i soldi sul conto corrente o investimenti di risparmio gestito. Vorrei parlarne con chi è un gruppo italiano ed è il principale gruppo italiano indipendente nel risparmio gestito, opera in 17 paesi, gestisce un patrimonio complessivo di oltre 57 miliardi. Il gruppo si chiama Azimut Holding, quotata alla Borsa di Milano. Siamo in collegamento col presidente e amministratore delegato del gruppo Azimut, Pietro Giuliani. Buonasera. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, voi oggi tra l'altro avete anche annunciato l'acquisizione di una quota del 55% in Sanctuary Wealth, che è il principale operatore negli Stati Uniti in quello che si chiama wealth management, cioè la gestione dei patrimoni dei ricchi, dei grandi patrimoni, e che gestisce 12 miliardi di dollari di attività. Però, e magari poi ci spiega anche cosa vuol dire comprare in questo periodo, che è indubbiamente una scommessa, ma insomma, gestire, una volta quando parlavo con lei, con i suoi colleghi, si diceva diversificare il portafoglio in modo che il rischio non sia tutto concentrato su un unico investimento, diversificare per area geografica, appunto, per ridurre il rischio, diversificare per settore, in modo che tu non punti tutto. Ora, non si è ristretto l'orizzonte con questo Covid? Perché è difficile diversificare, per esempio, per area geografica, se escludiamo forse la Cina. Prego, Giuliani. Allora, partiamo da una considerazione molto, molto intuitiva e facile. Si sembra che si sia ristretto l'orizzonte con i tempi del Covid, perché di fatto continuiamo a pensare in termini tradizionali. Allora, il nostro gruppo ha 5 amministratori delegati, di cui 2 che occupano praticamente solo dell'estero, ed uno di questi amministratori delegati è quello che è il responsabile dell'acquisizione che abbiamo fatto negli Stati Uniti. Noi abbiamo fatto 2 cose di tipo strategico che non sono appunto classiche su quello che fanno in Italia. Per quello che mi risulta siamo gli unici italiani a stare a questo livello. Noi siamo partiti 12 anni fa, abbiamo diversificato all'estero, in particolare nei paesi emergenti. Seconda cosa, 5 anni fa, con i tassi bassi, e questo fa parte di come si dovrebbe secondo me pensare oggi quando si parla con i risparmiatori, con i tassi bassi si corre il rischio di dare rendimenti molto prossimi allo zero. L'unica cosa che si può fare è, facendo pagare un costo aggiuntivo al cliente, quindi il costo della illiquidità su una parte del suo portafoglio, io suggerisco il 30%, si possono ottenere risultati molto più importanti, ripeto, rinunciando alla possibilità di liquidare il proprio investimento a breve. Negli Stati Uniti noi siamo partiti nell'acquisizione di quote di minoranza, che col tempo diventeranno di maggioranza, in società che fanno private equity o private debt, quindi alternatives, quindi strumenti illiquidi in economia reale, quindi in aziende non quotate, sia sotto forma di azioni sia sotto forma di debito. Questo qui ci ha portato negli Stati Uniti ad essere scelti dalla società di cui oggi abbiamo acquisito la maggioranza, Sanctuary appunto, perché loro, che hanno lo stesso problema con i clienti, perché questo problema noi lo abbiamo in tutto il mondo, con i tassi a zero danno dei rendimenti assolutamente di non soddisfazione per i clienti americani, ricchi o poveri che siano, poveri no, insomma, ricchi o meno ricchi che siano, e quindi apprezzano il fatto che ci sia un gruppo che ha società di gestione in 17 paesi in giro per il mondo e quindi ha spalle larghe per potersi permettere questo. Noi anche quest'anno faremo i 300 milioni di euro di utile netto che abbiamo dichiarato all'inizio dell'anno, quindi come tutte le società quotate sane possiamo investire molto, possiamo fare investimenti anche in società di gestione di economia reale, quindi alternatives, quindi private equity. A questo punto questo porterà i nostri clienti e chi lavorerà con noi, quindi consulenti finanziari, bankers di qualunque tipo, a poter dare quei rendimenti che in un momento come questo diventano complicati. Ecco, ma la domanda, mi scusi Giuliani, al di là della bontà della vostra operazione, era un po' diversa, cioè come si fanno a fare rendimenti con questa incertezza e con i tassi a zero? Cioè, riuscendo a chiedere tempo, la seconda cosa che va chiesta al cliente, oltre a rinunciare alla liquidità su una parte del suo portafoglio, è su un'altra parte del suo portafoglio, non su tutto, chiedere un po' di tempo. Qualunque investimento si faccia, quotato o non quotato, oggi se uno ha tempo, il Covid finirà, ma non perché finirà il virus, ma perché si troveranno le cure innanzitutto, poi si troverà un vaccino di cui ci sentiremo tutti tranquilli di vaccinarci e non magari per farlo in fretta essere non troppo tranquilli. A quel punto il mondo ritornerà abbastanza simile a quello prima e quindi tutti gli investimenti che c'erano prima, quasi tutti, ritorneranno a valere quanto valevano prima, magari qualcuno qualcosa in più, qualcuno qualcosa in meno. Per cui è veramente un effetto ottico o una situazione emotiva di disagio, ma fra 12 mesi tutto questo è finito, sono finite le elezioni americane, è finito il Covid o tutto quello che in questo momento sta influenzando gli investimenti. Fra 12 mesi il mondo sarà abbastanza simile a quello che era prima e chi quindi ha investito i soldi senza angosce, senza patemi d'animo, fa le cose. La prima regola è in questo momento aumentare l'orizzonte temporale. Seconda regola, lei però non sta citando alcuni settori specifici. Io sono parzialmente d'accordo che, non essendo una crisi di carattere economico-finanziario ma di carattere sanitario, appena avremo risolto il problema grosso sanitario, sia la cura che eventualmente il vaccino, la macchina potrà ripartire. Però c'è qualcuno che fa notare, per esempio, attenzione, anche tutto il piano europeo, molti si sono messi a investire in società green, cioè che lavorino con settori a sostenibilità ecologica e a sostenibilità ambientale, altri stanno puntando molto sulla digitalizzazione, sulle aziende farmaceutiche. C'è qualche settore che secondo lei uscirà rafforzato, brutto dirlo, ma insomma, o più interessante da questa crisi da Covid? Allora, la farò sorridere prima con una provocazione e poi rispondo seriamente alla domanda. Oggi, se uno avesse voglia di investire una parte dei suoi soldi, dovrebbe investirla nei settori più martoriati della ristorazione, dell'hospitality e del turismo, perché ai prezzi in cui uno compra oggi questi settori, ripeto, fra 12 mesi ha guadagnato un'infinità di soldi. Però, a parte questo, che non è una battuta, è una cosa che se qualcuno la fa, fra 12 mesi ci ricordiamo e lui avrà guadagnato molto. Noi nel nostro piccolo un pochino lo stiamo facendo. Ci sono i settori che ha citato lei, io credo sicuramente in tutti gli investimenti ESG. Questo è un problema di tutto il mondo, è un po' come il discorso dell'acqua, no? Investimenti tematici sull'acqua, quindi ci sarà carenza d'acqua, ci sarà necessità di fare investimenti di natura ESG, per cui queste cose qui sono un long term investment. Quindi ESG, cioè tutta la parte verde, diciamo, di sostenibilità ambientale, certo. Assolutamente in generale. Seconda cosa, sicuramente tutta la parte digitale, però anche lì la parte digitale era già partita un'onda lunga che in questo momento si è solo un po' più accelerata, o se volete ce ne siamo resi conto tutti quanti un po' di più. Io non penso, continuo a non pensare, che noi oggi dobbiamo pensare a investimenti seri spinti dalle elezioni americane che fra 2 mesi saranno concluse, sto immaginandomi anche la monetina che non diventa né testa né croce ma che rimane a metà come successe alcune elezioni americane fa, e anche il Covid, questa roba passa, è temporanea, gli investimenti rimangono quelli che erano validi. No, ma questo è molto importante, perché nel ringraziarla mi interessa l'approccio, non è che io dia giudizi, però di dire attenzione, è chiaro che siamo tutti sotto un'onda emotiva e anche di grande preoccupazione sanitaria, di grandissima preoccupazione economica per il breve termine, però quando fai un investimento dai, concediti un po' più di tempo e diciamo sì, fate salve alcune variabili, appunto tutti gli investimenti legati a società che operano nella sostenibilità ambientale, il mondo diciamo dal punto di vista economico finanziario tornerà a essere abbastanza simile a quello che era in precedenza, quindi nervi saldi quando fai un investimento, chiaramente quando chiedi a qualcuno di gestire i tuoi soldi senza sperare in un ritorno, magari allungando appunto il tempo del ritorno sull'investimento. Grazie anche a Pietro Giuliani, presidente amministrativo delegato del gruppo Azimut, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni, l'augurio di una buona serata. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi.